Can you see it, my brother? Can you see the new? Sister, can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? E anche in rassegna stampa culturale parleremo di musica. Volevo aprire con l'articolo che ci riporta al saggio della settimana. È di Canfora, un grande saggista, per cui insomma anche oggi un quiz per arricchire la vostra biblioteca, che se andrà a buon risultato avrà modo di portare un'altra pubblicazione interessante nelle vostre librerie. Il quiz è molto facile, quindi è questione di tempo e tempo di reazione nello scrivere la risposta. Iniziamo in musica, quindi, come ho già detto, dando una continuità anche con il Bologna Jazz Festival. Ma a tale proposito do il buongiorno a Lino, che scrive al 333 180 9494. Buongiorno Breakfast, sabato avrei voluto venire al Torrione ma mia moglie non era convinta che gli potessero piacere. È questione molto di gusto, però è indubbiamente qualcosa di, insomma, qui è un aspetto trasversale. Allora, sabato sera è stato un concerto di jazz, punto, fine del discorso, per come io intendo, ecco, potrei concludere tutte le mie riflessioni, recensioni così. Sabato sera abbiamo ascoltato, visto, sentito un bellissimo concerto di jazz. Peccato, mi sa che ho perso un bel concerto. Capita, Lino, ce ne sono tanti altri, anzi ci mancherebbe, sai che il programma è veramente fino al 27 novembre e oltre tra Bologna e il cartellone del Jazz Club Estense, che va ben oltre, fino allo stacco 2023-2024. Noi li presentiamo e cerchiamo di coprire tutti gli appuntamenti. Questa tua analisi comunque, non so, poi magari è stata una mia impressione, ma alcuni hanno pensato in questo modo, che potesse essere un lavoro. Beh, c'è stato qualche dubbio, ma posso assicurare che almeno per quanto mi riguarda è stato un concerto meraviglioso. Alla fine, con Libero Farnè in prima fila, con Sandro Baroni, mi sono confrontato con qualche dubbio, perché loro sono molto severi Snake come professori di musica, invece assolutamente convinti del trio presente al Jazz Club. La lettura del Corriere della Sera, ho detto che iniziamo in musica e con due articoli in musica inizieremo. Notte Blu, in pagina 41 dell'inserto del Corriere della Sera, si parla di chi sarà presente in questo caso per il 21 novembre al Teatro Duse, un concerto prodotto dal Bologna Jazz Festival. È un grandissimo nome, è un chitarrista molto attento all'aspetto timbrico e all'aspetto armonico, non è tendenzialmente, anche se ne ha ampiamente le capacità, non è secondo me esattamente un virtuoso, ma è indubbiamente un grandissimo compositore e, come ho detto, il timbro è qualcosa che stende positivamente parlando, e anche con l'armonia è molto capace di trovare le soluzioni e soprattutto le curiosità nella sua ricerca musicale. Sto parlando di Bill Frisell, che troverà spazio al Teatro Duse in uno dei concerti a teatro per il Bologna Jazz Festival insieme a Thomas Morgan al contrabbasso, altro nome importante, e Rudy Royson alla batteria. Dopodiché ci sarà un'apertura con The Unscientific Italians Play the Music of Bill Frisell. Tra questi nomi troviamo Alfonso Santimone, Piero Bittolo Bon e altri musicisti come Franco Filippo Vignato, insomma Zeno De Rossi alla batteria, per cui sarà un insieme e un dialogo quanto mai interessante. Di Bill Frisell, di cui alcune caratteristiche ho già elencato, come l'articolo che troviamo a pagina 41 della lettura del Corriere della Sera, tra l'altro prima sarà la rassegna in jazz di Padova, sono due date italiane. La chitarra di Frisell cerca il luogo dove tutto inizia, sì, lui è in continua esplorazione, anzi mandiamo un brano, è un'interpretazione questo brano, però qui si denota la dolcezza, oltre che, come ho detto, un'incisione timbrica veramente importante. È uno standard, è Moon River, ve lo propongo ricordando la presenza di Bill Frisell in trio al Bologna Jazz Festival al Duse per la serata di martedì 21 novembre. Virtuoso tipico magari è più difficile da riconoscere, ecco, l'aspetto delle corde di Bill Frisell sono inconfondibili, queste le caratteristiche nei suoi viaggi, chiamiamoli così, di ricerca. Io questo brano l'ho tratto da un disco, da una serie di dischi che lui ha inciso per la Non Such Record, che ha portato una ricerca sulla musica americana. In questo disco alla batteria troviamo il grande Elvin Jones, tra le sue collaborazioni veramente ve ne è di svariate presenze. Lui ha lavorato anche con John Zorn, ha fatto ricerca per la Zadig ed è una figura per quanto riguarda il mondo della musica, oltre che del jazz, veramente molto importante. River, Henry Mancini, un brano bellissimo, dolcissimo, e con queste corde indubbiamente questo aspetto viene evidenziato, oltre che dalla tecnica e l'originalità. A pagina 12 invece di Ultrasuoni per Alias del Manifesto nell'edizione del sabato troviamo una figura, il genio sparito, e un'indagine su questi protagonisti che a un certo punto sono spariti dalla scena musicale. Questo è Sly Stone. Sly Stone è la sua formazione, l'artista si ritira dalle scene già da parecchi anni ed ha appena pubblicato negli Stati Uniti una sua autobiografia. Nell'articolo Guido Mariani ne dà un approfondimento molto particolare. Dice: ok, ci sono stati tanti artisti che purtroppo hanno interrotto la loro carriera, soprattutto negli anni 70, per motivi che ben conosciamo. Ecco, lui è sparito, si è ritirato, ha scelto un prepensionamento. Certo che non si sceglie la fine definitiva e ci mancherebbe altro, però è altrettanto importante un mettersi da parte nonostante il grandissimo successo. Agli inizi è stata pubblicata in queste settimane l'attesa autobiografia Thank You Sly Stone, con il libro Green Man, autore che in passato ha già lavorato a memoir di musicisti iconoclasti come Gene Simmons, altro grande musicista, Brian Wilson, George Clinton, insomma, sono tutti nomi fondamentali. Il libro pubblicato negli Stati Uniti è un nuovo marchio editoriale, la AUA, diretto e portato dal Questlove Thompson, noto bassista dei The Roots, esattamente, e il titolo riprende una hit datata nel 1969. Insomma, si narra in maniera molto importante che ossessionò Miles Davis al punto che di indurlo non solo a farlo ascoltare a ripetizione nella sua band, ma anche da convincerlo a cambiare l'intera strumentazione dei suoi musicisti per poter capire e carpire il segreto di quel suono così potente e contagioso. Pensate, e quindi rivedendo i vecchi filmati di concerti di Sly Stone di quell'epoca, sembra che quel segreto sia stato a tutt'ordine rivelato davvero a pochi eletti. Il genio sparito, un grande talento, è stata anche una bandiera per la protesta, una figura, come ho già detto, che ha lasciato grande talento, ha lasciato motivo di ispirazione, addirittura ha ossessionato Miles Davis e ce ne vuole, e qui lo ascoltiamo in uno dei suoi più grandi successi, che ovviamente la conoscete, è Family Affair, Sly and the Family Stone. Up to be somebody that just loves to learn, and another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them, you see it's in the blood. Both kids are good and mom, thicker than the mud, it's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. What a bear. What a bear. Checking each other out. Hey, nobody wants to blow. Nobody wants to be left out. You can't leave 'cause your heart is there, but you can't stay 'cause you've been somewhere else. You can't cry 'cause you look broke down, but you're crying anyway, 'cause you're all broke down. It's a family affair. Grande, guardate che Miles Davis comunque, ok, lui per me è un tutti i tempi, ok, ma ha una grande capacità da, scusate il termine, mi arriva un fulmine adesso, da copione, ma è bravo. No, voglio essere capito, insomma, nel cool jazz c'è Gil Evans vicino a lui che dà un contributo fondamentale. Nella famosa fusion, la svolta, c'è Joe Zawinul che darà una parte, anzi saranno questi probabilmente autori di un'ispirazione. E poi Miles ci pensa poi lui a metterla in pratica o a metterci del suo, ci mancherebbe, anzi, ma non solamente perché per il modale, ad esempio, anche in questo caso George Russell è di fondamentale importanza nel suo lavoro. Sempre chi scala l'Himalaya o prova a scalarla, magari andate, ok, importante. Poi arriva lo scalatore che, insomma, ufficialmente mette la bandierina. Ecco, non so se può essere attinente come metafora, ma per Miles Davis, secondo me, si addice, senza nulla togliere, a uno dei più grandi compositori della storia della musica. E 5 rivoluzioni ha portato. Queste molte sono state ispirate oppure percorse e poi percorse definitivamente dal The Man with the Horn, grande trombettista e compositore Miles Davis. Se ascoltate tutto uno degli ultimi dischi, c'è tanto Sly and the Family Stone. La ricerca su queste due pagine di Alias, molto belle tra l'altro, nell'edizione del sabato del Manifesto, procede. Poi vi ho parlato, no, di questo ritiro anticipato, adesso a 80 anni, da oltre 40 anni assente nelle scene musicali, Sly Stone e la parabola delle voci spezzate, un'odissea black. Storie, cantanti e interpreti neri che hanno scelto per motivi diversi di abbandonare le loro carriere. Ad esempio Nina Simone ne viene ricercata qua, ma tornando più indietro, Jackie Wilson, e ce ne sono diversi. Ad esempio nel 85, anche se meno travagliata, la scelta di vita che fece di Bill Withers un portare e deporre, per così dire, la sua carriera a dir poco stellata e stellare, iniziata alla fine degli anni 60, scandita da dei successi. Beh, Bill Withers lo sentiamo spesso nelle playlist mattutine, Ain't No Sunshine, Lovely Day, Use Me, le collaborazioni con Grover Washington Jr., insomma, e tanto di più. Si è ritirato anzitempo, anche in questo caso voci spezzate, un'odissea black, a pagina 13. Interessante incontro di dibattito e di ricerca per Alias del Manifesto. La passione civica di Nina Simone, il rifugio nelle Filippine di Laverne Baker, Curtis Blow, il rifiuto del gangsta rap e tanti altri protagonisti in questo articolo che porta a conclusione la nostra parte dedicata alla musica all'interno dei magazine di oggi, lunedì 13 novembre 2023. Rientriamo e questo disco saltella un po', accidenti, peccato perché è molto bello. Vediamo se questo brano dà più continuità. Pare proprio di sì, ed è altrettanto bello. Me lo sono ascoltato nel mio weekend polesano. Il brano che vi propongo è Un Regard, Un Sourire, la Tom and Joyce, formazione che a volte è attenta alla bossa, a volte è più attenta a qualcosa che, come ben sentite, è qualcosa di ritmico. Eccoli a voi, a tra poco. Rien qui semble plus en dire et l'on rêve. Et le vent emporte au loin les nuages du passé, des orages épanouir ce beau rêve. Penso a te, a quando qualcuno degli Achei vestiti di bronzo ti priverà del giorno, della libertà e ti trascinerà via in lacrime, a quando in Argo dovrai essere tra stoffe per un'altra donna e porterai acqua dalle fonti contro il tuo volere, costretta dalla dura necessità, e forse qualcuno ti vedrà e ti dirà, vedendoti piangere: questa è la sposa di Ettore, che fra i troiani domatori di cavalli era il più forte quando si combatteva intorno a Ilio. Ma io possa morire, possa ricoprirmi la terra prima che io ti sappia trascinata in schiavitù. Don't get me down. Piuttosto scelgo la morte, vado a combattere contro il più forte, vado a combattere contro Achille, so già che mi farà pezzi, ma do l'anima, perché io non posso pensare di vederti lavorare trascinata per i capelli, vederti soffrire e magari derisa anche. Eccola, guardate la moglie di Ettore com'è ridotta, fra i troiani il più eroico, eccola qui, guarda. Don't get me down. Il saggio di oggi che voglio portare in premio per voi: Atene e Roma combattevano per la merce più preziosa, gli schiavi. Luciano Canfora esamina attraverso i classici, da Omero a Tito Livio, uno dei grandi temi del mondo antico. Emergano le sue impressionanti dimensioni e il nesso stretto che già esisteva fra guerra ed economia. Ma i tempi sono cambiati, credici. La conquista di una città, ovviamente oltre che per i tesori e il potere territoriale, soprattutto serviva a procurarsi manodopera, che qui viene definita manodopera servile. Già si pensava a dare un termine edulcorato, manodopera servile. Adesso si usano altri termini, magari li prendiamo così, co-working oppure altri aspetti. Già nell'Iliade Ettore predice alla sua Andromaca che perderà la libertà. Il lavoro è un'edizione Sellerio e del saggista Luciano Canfora, Guerra e schiavi in Grecia e a Roma. Allora, per quanto riguarda questo aspetto fondamentale, anche perché ce n'era una quantità più grande di quanto noi possiamo immaginare, e tutta la popolazione tra virgolette libera, ma anche se c'è solo un uomo in schiavitù, come dicevano, non tutti ci possiamo considerare liberi come crediamo. Ecco, la popolazione, come ho detto, libera, anche quelli meno abbienti, nell'antica Grecia, già allora, no, avanti per quanto riguarda la società, però teneva a possesso almeno due schiavi a testa, ecco, prigionieri di guerra. Don't get me down. Un generale dei confederali che poi è caduto in battaglia contro l'esercito nordista, a sua volta lui parlava in maniera molto decisa e anche molto inquietante per quanto riguarda lo schiavismo. È un elemento essenziale in una vera repubblica per preservare una perfetta eguaglianza tra i cittadini, anche per far crescere e incoraggiare lo spirito di libertà. Ecco, queste sono le sue parole, capite? capito che magari, come ho detto adesso, in maniera più edulcorata, ma vengono espresse allo stesso modo. Lo vedremo da un altro articolo che prenderemo dal Corsera. Intanto io, come ho detto, propongo questo saggio per voi al 333-180-9494, ricordando che poi, a proposito di guerra e economia, la libertà, l'abolizione della schiavitù fu portata per motivi economici, non è che erano santuomini e i nordisti, c'era un cambio per quanto riguarda l'economia, non era più la grande proprietà terriera e agricola, stava prendendo piede in proiezione futura quella che era l'industria, e si calcolò, sai cosa? Costa meno un operaio che uno schiavo, eh? Costa meno un operaio che uno schiavo. Lo schiavo devi tenerlo in forze se vuoi che appunto porti questa manodopera servile sempre in maniera assolutamente costante, forte. Quindi devi anche proteggere questa tua, perdonate le parole aberranti, proprietà. Mentre invece tu dai un piatto di lenticchie, fai credere che è libero, beh, insomma, ti metti anche in moto l'economia, crei tante unità formate con queste disponibilità, è un attimo poi rilanciare anche un aspetto imprenditoriale, no? Tanto poi, se la grande impresa, la grande economia, la grande finanza perde una guerra, al limite ci rimettono gli schiavi, no? E siamo ai giorni nostri, guarda un po' come siamo collegati, eh? Nel suo quinto film da regista, 100 domeniche, Antonio Albanese, l'attore interpreta un lavoratore che vede sparire i risparmi di una vita affidati a una banca. Il famoso caso di Anton Veneta e Banca di Vicenza, no? Per realizzarlo ha collaborato con la psicologa Emilia Laugelli, che assiste persone truffate in Veneto. Li abbiamo fatti dialogare su un dramma che ha tradito la fiducia e distrutto la serenità di tante famiglie. Antonio Albanese, I sogni degli operai, di nuovo in fumo. È stata una sconfitta per alcuni, perché tanta gente si è messa in tasca, anche come ogni sconfitta. Sappiamo bene che c'è anche chi poi si mette in tasca dei bei soldini. Quando dicono bruciati in borsa miliardi, non è che li mettono dentro una caldaia e danno fuoco con il cherosene, no, si chiama speculazione. Ce ne sono tanti che sulle spalle di molti di più riescono a lucrare anche su queste sconfitte ad arte. Chi ci rimette veramente, come in questo caso, è il protagonista interpretato da Antonio Albanese, e anche in questo caso, vedete, è stata una sconfitta che ha creato schiavitù. Luciano Canfora per Sellerio, schiavi tra antica Roma e Atene. E per voi la domanda, beh, per chi visionava alcuni palinsesti Rai di qualche decennio fa, con il famoso sceneggiato "a proposito ci sono delle imperfezioni storiche", io l'ho visto già da bambino, avevo qualche, comunque il titolo è Radici. La lunga serie di episodi, tra l'altro, partono da un capostipite di questa di questa serie di persone e di famiglie tenute in schiavitù. Come si chiamava il capostipite, allora ragazzo che viene preso da una nave negriera, viene deportato, il suo nome africano, tra l'altro è stato anche al centro di battute, così sì, calambur, giochi di parole, e vabbè, accettiamolo. Ma per quanto riguarda invece quello che è il quiz di oggi, restiamo seri e portiamo al 333-180-9494 il nome di questo capostipite che crescerà poi negli Stati Uniti d'America, capostipite di una famiglia purtroppo tenuta in schiavitù, che dà il via alla serie Radici. 333-180-9494, aspetto le vostre risposte. E per voi ci sarà la schiavitù, no, è detta così, no, ci sarà il saggio di Luciano Canfora sulla schiavitù nell'antica Roma e Atene. Arrivato un bel podio, anche qualcosa di più di vincitori, eh? A me piacerebbe, perché ho diversi libri a tema, uno in particolare, Il viceré di Ouida, che per me è un capolavoro assoluto della letteratura a tema, che dà veramente importanza a una delle più grandi tragedie di tutti i tempi, la deportazione umana. Di Peter Cameron, Il viceré di Ouida racconta appunto che i prigionieri delle guerre in Africa erano deportati e venduti dalle tribù corrotte dai bianchi. Questo affare ha portato una ricchezza tale ai pochi vincitori che gestivano questo mercanteggio, che hanno per così dire incitato i bianchi, i famosi conquistadores e non solo, e tutto ciò ha poi lasciato l'Africa, oltre che con una deportazione, una tragedia cruenta umana inenarrabile, anche con una mancanza alle origini di iniziativa, perché dava tantissimo denaro la deportazione di uomini, per cui non c'era bisogno di uno sviluppo. Depredare l'Africa delle risorse umane è stato, per così dire, beh, era quello che dava la ricchezza, solo che sapete bene, non c'è bisogno che io vada a dire di più, sì. Lo non è che con un equipaggio, seppur armati, arrivi lì e porti via interi villaggi. No, erano venduti dalle tribù che andavano a conquistare altri villaggi. A questo punto anche le famose lotte tribali. Ma guarda caso, riprendiamo dei termini che ci sono anche adesso. Ma pensa un po'. Luca è il vincitore ufficialmente di questo saggio, però vorrei premiare anche Luigi, vorrei premiare anche questo ascoltatore di cui mi sta sfuggendo il nome. Gianluca, non è che sei lo stesso che ha scritto su due piattaforme diverse? Perché se è così, guarda, in questo caso, wow, grande caparbietà, grande grinta, eh? Ovviamente la risposta esatta è Kunta Kinte. Sarete contattati, intanto vi ringrazio per l'attenzione e per la partecipazione a questi magazine. Procediamo, a volte noi anticipiamo i magazine, sì, grazie anche alle intuizioni di Silvia Albertazzi, che saluto. Per quanto riguarda Alias nell'edizione domenicale, la mia preferita, lo ammetto. Storia di un rimorso in interni, Shaker, è il lavoro che ha recensito Silvia anche per Alias nell'edizione domenicale del Manifesto. Potrebbe essere nella cinquina Pellegrino, la sconcertante vicenda di una fra le tante comunità utopiche sorte tra i due secoli in America, rievocata da un narratore incerto sulla veridicità dei fatti che ha ricostruito la terra della magia, edizione Einaudi, storia di un rimorso in interni Shaker. E questo il lavoro, appunto, di cui ne abbiamo già parlato mercoledì nel Voltiamo Pagina. Paola apprezza particolarmente il brano, vabbè, loro, Caribou, progetto Caribou, poi a tanti vi sono di musicisti per la Leaf Record passati poi alla Domino, ma lui è uno, Caribou, che poi si chiamava Manitoba, ma ebbe dei problemi con quel nome, quindi cambiò il nome con Caribou. Dal disco Swim, secondo me è il più bello, il brano dal rientro della pubblicità, Odessa. Vincitori, sarete contattati nella giornata odierna, in mattinata, intanto grazie. Quando ho la possibilità di regalare, si può dire, dai, dei bei libri, sono particolarmente felice. Come un bel libro è quello portato da Silvia Albertazzi, anticipando i magazine, Storia di un rimorso in interni Shaker, il lavoro La terra della magia di Russell Banks. Di Russell Banks leggete anche, sempre per Einaudi, capolavoro, Il dolce domani, libro bellissimo. Ma anch'io ho anticipato a modo mio, con due esposizioni che sono sulla lettura e Robinson, esattamente con Tina Modotti a Rovigo e con la mostra Achille Funi a Palazzo dei Diamanti Ferrara. Ve n'è un reportage tra Robinson e il Corriere della Sera, quindi la lettura, ne sono ben contento. E poi c'è una mostra che voglio riportare, dedicata a Rubens per la fantastica città di Mantova. 9 maggio 1600, un giovane pittore di 23 anni lascia Anversa, la svolta dell'Italia. Scoprirà la bellezza, la classicità, diventando un artista. Ecco la storia della sua formazione. Al centro di una mostra, anche a Galleria Borghese di Roma, dove capolavori, dipinti e disegni ripercorrono quel viaggio che una scrittrice ha rifatto per noi. Pensate che come uomo di corte, tadan, agente al servizio dell'arte e del potere, le relazioni non pericolose con i Gonzaga e l'impero, l'attività diplomatica portata avanti a colpi di dipinti, che siano anche messaggi intrinsechi all'interno di questo grandissimo talento, l'altro lato della vita di Rubens emerge adesso nella mostra di Mantova, l'altra città che amava. Buon gustaio, mi viene da dire. Al termine i nostri magazine, l'appuntamento è a domani con il Mood Groove. Parleremo di grandi coach. Sapete, da poco è scomparso Bobby Knight, quindi parleremo di grandi coach. Poi un commosso saluto, già in condizioni gravemente precarie la sua salute. Nei giorni scorsi ci ha lasciato Charles Jordan, di cui abbiamo parlato nel Mood Groove di martedì scorso. Come ho detto, le sue difficoltà di salute, anche di vita, erano veramente molto molto arrivate all'ultimo stadio, per cui ci lascia Charles Jordan in un parquet celeste. Grazie Charles, è stato il mio primo modello come giocatore tra genio e sregolatezza. Un ulteriore saluto anche per domani al Mood Groove, puntata però dedicata ai coach. E con questo io mi congedo a voi, ricordo che alle 7 avremo il Breakfast Club, faremo colazione assieme anche per domani martedì imprevedibile su Radio Città Fujiko, e per ora vi lascio con un po' di musica, Lady Pen Enciclopedico, poi Liberi Dentro. Ricordiamo che a lunedì è Caffè e Paglia, gli eventi sportivi del weekend appena trascorso con Mingo and Company, e come vi ho detto nella lettura delle prime pagine, la rassegna stampa dalle 9.30 alle 10.30, curata e condotta da Alfredo Pasquale. Dal vostro William Piana, un grazie per l'attenzione, un caloroso abbraccio, anche se un po' di sole pare sia arrivato anche per la giornata odierna. Un buon inizio settimana, un buon ascolto, un buon lunedì. Ciao a tutte, ciao a tutti, a domani.